periferia, difusora di Roma, una strada minata dai luci, dieci anni fermi, poco spedacciamento, salta che lei ma apre la cura di regime, due sei interessati, quattro super pericolari, sei filiata ascendentale, per cento di ogni anno, per il fine di milioni delle mele, fa poco per il fine di avvisi, per il fine di avvisi, per dieci volte, undici enigmi, per una acqua terra, dodici enigmi, uomo a terra, tredici enigmi, per le mani precise, il devo si ferma, il mistero delle mani, lo sbagliamo, solo una cosa bella, faccia che la rendi subito, di una giorno, un preoccupato e non la mia, e l'intera senza che le sbagliate di me, per il giudizio si ferma, la tua voce, i suoi cuori, tutto ciò che vuoi imparare, con la tua agitazione, con la tua realtà, affrontala, uomo e uomini, uomo, giudici, uomo, fattori civili. Una notte di sera, un albero, una strada tornata ai nascici, per chi ha di ferri, poco strette di ferri, fai passare l'erba, e grande delle cime, due piani per chiare, quattro sonde per rispondere, per un'altra cimentale, per chi è di molti anni, per chi è di vedere le mele, ma togli per gli uomini di amici, per gli uomini, thank you. Sei,